pelo tempo que eu não vi agora. Ma come mai tu puoi essere? Perché stava male, cioè era sulla smerda, va a cagare, perché è proprio un attacco di quella.